5, 4, 3, 2, 1, 0. Hello, Radio Resaca. Comes DT, Sayati Kaldi, EEOC. Echo Avoy, is Peak English. Modidi dear, for Lee Italiani Alestero, and for the others, to better understand Italian real popular culture. I need to be myself. Ah, dimentiche vo. Sui Speak English si ascolta solo musica British. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Il detto del giorno. Today way to say. Give me your autograph. Suora, tua. Chiuso. Che in inglese possiamo tradurre con None, yours, closed. None, yours, closed. Modo di dire che ci riporta all'infanzia. Quando da ragazzini, per le strade di Roma, si incontrava una suora, era uso comune pronunciare questa espressione, toccare un nostro amico, e incrociare le dita. In sostanza si trattava di un piccolo rito magico, che ci proteggeva dalla proverbiale sfortuna portata dalla vista di una suora, e passava questa zella, come si dice a Roma, al malcapitato, che veniva toccato, il quale a sua volta, doveva essere abbastanza veloce da toccare qualcun altro, prima che questo, incrociasse le dita, rendendosi immune. Ecco l'immaginario di chi bambino è cresciuto nella stessa città dove vive il Papa.